Il gastronauta di Davide Paolini. Buon sabato, cari gastronauti. Ebbene, oggi facciamo un viaggio molto particolare, facciamo un viaggio, un itinerario attorno il lago di Como. Ebbene, questo lago è conosciuto per le sue bellezze, diciamo che è una bellezza internazionale, conosciuta in tutto il mondo, quindi molto frequentata dal turismo. Però si sa ben poco di quello che, diciamo, di gustoso c'è attorno al lago di Como. Allora noi cerchiamo di andarlo a scoprire, e devo dire che in questo itinerario che abbiamo fatto abbiamo così trovato una serie veramente di chicche non indifferenti. Abbiamo trovato miele, formaggi, olio, vino, insomma, diciamo un paniere completo di prodotti, aggiunto anche a qualche ottima ristorazione. Bene, voglio cominciare questo viaggio andando, diciamo, colpendo subito quello che è il prodotto più tipico e viene riconosciuto al lago, e sono appunto i pesci, e soprattutto c'è i missoltini, che sono veramente, così come posso dire, la star di questo lago. Però andiamo da Marco Molli a Cernobbio. Buongiorno Molli. Buongiorno. Allora, io so che lei produce degli ottimi affumicati, addirittura anche della bottarga di pesce di lago, perché tutti immaginiamo sempre la bottarga di tonno o la bottarga di mugine, invece esiste anche la bottarga di pesce di lago. Sì, sì, esiste. Non da molti anni, ma la produciamo anche noi. Sì. Ecco, con quale uova? Con parecchi tipi di pesci, cioè facciamo quella di Lavarello, che è quella più conosciuta, che è il pesce più pescato, diciamo, nel lago. E poi vabbè, facciamo anche quella di Agone e quella di Lucioperca, che addirittura riusciamo a tenere nella sacca intera. Quindi una vera bottarga, insomma, come, diciamo, come si usa in Sicilia, in Sardegna con gli altri pesci. Ma volevo chiedere, oltre a questo lei produce anche affumicati e altri essiccati di pesce di lago, se non erro? Diciamo parecchi tipi di pesci, cioè siamo nati col pesce, con la trota noi, e poi dalla trota abbiamo iniziato a lavorare altri tipi di pesci di lago, il lavarello, che è buonissimo, lo facciamo affumicato a caldo, sia filetto che intero. Poi vabbè, affumichiamo anche anguilla, affumichiamo trote pescate. Ecco, con quale sistema di affumicatura? Un vecchio sistema oppure con i modernissimi sistemi di affumicatura? Sì, noi siamo rimasti abbastanza arretrati, cioè ci teniamo alla affumicatura ancora di una volta, cioè selezioniamo noi i legnami e le erbe aromatiche, le maciniamo e usiamo ancora questo procedimento. Certo, è molto più lungo, molto più oneroso, molto più, però vedo che paga, diciamo. Senta Marco, mi rivela un segreto: quali legni usa? Allora, prima di tutto quelli da non usare sono quelli resinosi, quali pino, abete, questi. I legni che usiamo sono più che altro faggio e ciliegio. E più che altro usiamo quello, e poi dopo vabbè, aggiungiamo a seconda anche della stagionalità delle erbe aromatiche. Usiamo molto l'alloro, poi vabbè, rosmarino, erba cedrina e anche foglie anche di agrumi, ad esempio nel periodo invernale. Bene, grazie Marco Molli. Ebbene, cari radioascoltatori, grazie, a presto. Abbiamo scoperto già una prima chicca: la bottarga di pesce di lago, di cui credo pochi ne conoscano l'esistenza, ma ora ne scopriremo un'altra, anche questa molto ma molto intrigante. È una mia passione. La passione è la zola di capra. Buongiorno Roberto Botta, dell'azienda di Giuseppina Bellotti di Argenio. Buongiorno Botta. Buongiorno a lei. Come le è venuto l'idea di fare la zola di capra? Ma devo dire che noi siamo produttori di formaggi di capra ormai da una decina d'anni. E visto che quando facciamo, nell'ambito della nostra ristorazione, che è un agriturismo, e nell'ambito comunque della vendita dei nostri prodotti, cercavamo sempre comunque di mettere qualcosa che potesse piacere alla gente, ma potesse essere qualcosa di particolare. Per cui da un anno abbiamo deciso appunto di fare la zola di capra, e devo dire che ci sta venendo anche abbastanza bene, insomma, via. Beh, io le dirò che sono molto ghiotto della zola di capra e anche della zola di pecora, perché secondo me sono veramente, diciamo, due derivati, diciamolo così, dal grande gorgonzola, però sono veramente molto, ma molto piacevoli. Oltre alla zola di capra, cosa producete sempre di capra? Ma noi di capra produciamo, vabbè, a parte il fresco, che è il caprino, piuttosto che la ricotta, produciamo la crescenza. Poi negli stagionati invece facciamo il taleggio, anche se in realtà non si può dire, comunque è un formaggio stagionato mediamente che viaggia intorno ai 2 mesi. Facciamo le tome, facciamo le formagelle e poi da un paio di mesi a questa parte abbiamo ripreso il shimudin fatto con latte di capra. Bene, la ringrazio, molto interessante anche questo tipo di produzione, anche gli altri prodotti. Ora andiamo ancora, abbiamo visto appunto bottarga di pesce di lago, zola di capra, andiamo al miele. Al miele da Marco Bianchi, dell'apicoltura Bianchi. Buongiorno Bianchi. Buongiorno a lei. Che miele producete? Diciamo che è una certificazione territoriale che abbiamo depositato il 3 di settembre. E niente, e diciamo coinvolge un po' tutti i mieli prodotti in provincia di Como, a questo hanno aderito una decina di aziende e diciamo sono i mieli, noi cerchiamo di certificare le produzioni fatte in provincia di Como, cioè quindi si va dal miele di acacia, miele di tiglio, miele fiori castagni, che sono i mieli tipici diciamo della nostra zona, in più abbiamo aggiunto dei mieli che noi vogliamo dire occasionali, cioè dei mieli che vengono prodotti o in altro tipo di mieli di alta montagna, tipo lampone, tipo l'alta montagna, rododendro, le melate, oppure l'ailanto, che è una pianta infestante che sta, diciamo, infestando giustamente la bassa comasca, no? E che produce un miele molto chiaro, che sa un po' di profumo di moscato. Diciamo che il nostro lavoro è stato indirizzato però principalmente a evidenziare innanzitutto le peculiarità del miele di Como, che grazie al lago, come dire, offre delle caratteristiche su alcuni mille fiori di tipo mediterraneo, cioè ad esempio la presenza dell'ulivo come polline, la presenza dell'erica arborea, che è una pianta classica mediterranea, no? Quindi ci siamo concentrati sia sulla classificazione di questi mille fiori, sia sulla, come dire, sulla capacità dei nostri apicoltori di produrre ad esempio dei mieli di acacia altamente qualitativi. Infatti nel nostro disciplinare puntiamo molto sia sul colore, che deve essere molto chiaro, quindi vuol dire purezza, sia su un'altissima percentuale di polline, che per i mieli di acacia deve raggiungere il 50%, che è una percentuale altissima. Bene, grazie Marco Bianchi, abbiamo scoperto anche qui una terza chicca, il mele di Ailando. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio attorno al lago di Como, alle chicche, alle curiosità gastronomiche che offre appunto, oltre alla bellezza del posto. Ora andiamo in un posto bellissimo, andiamo a Bellagio, dove ci sono delle vere e proprie star della cucina. C'è il famoso Ettore Bocchia, il molecolare, ma soprattutto, che rappresenta il territorio, abbiamo Cristian Ponzini del ristorante Silvio, che credo oggi sia probabilmente in ospedale. Buongiorno Cristian. Buongiorno, ciao Davide, buongiorno gastronauti. Sì, sto soffrendo e penando la vendetta del lavarello. Nello scaricare le reti mi sono rotto un piede. Ecco, siamo entrati subito in argomento, scaricando le reti, perché tu sei rimasto uno dei pochi pescatori ristoratori. Sì, pochi ristoratori pescatori, non pochissimi pescatori. Io ho il piacere, l'onore e l'onere di essere presidente dell'Associazione Pescatori Professionali Lariani, dove con l'APAT abbiamo un numero di pescatori sul lago di Como pari a 73 unità. È il lago con il più alto numero di pescatori professionisti ancora operanti. Senti Cristian, ma il pesce c'è ancora nel lago? E come no, è anche buono. Migliora. Quali sono le specie più, diciamo, più rappresentate nel lago? Ma come quantità fondamentalmente noi parliamo di lavarello coregone, rappresenta la metà della pesca sull'ario, e diciamo così in tutti, è un po' così anche in tutti i grandi lombardi. Quindi quando si parla di pesca nei grandi laghi lombardi e del lago di Como soprattutto, si parla fondamentalmente di lavarello, di coregone. Senti, ma questo missultin di cui si parla tanto, ma esiste ancora, c'è ancora, si trova ancora? Allora, innanzitutto spieghiamo che il misultino non è un pesce. Certo. È il risultato di una lavorazione apportata all'agone. L'agone, la sarda, uno dei pochi pesci veramente indigeni che migliaia di anni fa attraverso i fiumi dal mare si è insediato nei laghi, appunto questo agone una volta pescato viene salato, essiccato, noi al Silvio e facciamo l'essiccazione ancora al sole, in modo tale che diamo la possibilità alla natura di fare selezione. Perché? Ti spiego subito molto velocemente questo processo che sembra di secondaria importanza, ma in realtà è fondamentale. Se tu metti ad essiccare un pesce nel forno, tu metti 100 pesci ad essiccare nel forno, a fine produzione avrai 100 pesci. Se tu invece ne metti al sole, fondamentalmente, non avrai mai 100 pesci a fine lavorazione, hai sempre uno scarto che va dal 7 all'X%. Perché? Perché io non posso essere così presuntuoso di pensare, di immaginare di lavorare sempre in maniera perfetta. Tante volte metto troppo poco sale ad un pesce, tante volte il pesce non è pronto per essere salato, e quindi mettendolo al sole diamo la possibilità attraverso la mosca di applicare la selezione naturale. La mosca va a beccare il pesce non preposto alla conservazione. Una volta secco, il misultino gli si dà una leggera martellata sulla testa per rompere l'unica parte dura che gli rimane, e poi con il foro praticato precedentemente rivolto verso il basso viene messo nelle latte e poi pressato. Io personalmente bacio il misultino non prima dopo 5 mesi. Attualmente al Silvio serviamo misultini che hanno 20 mesi, conservati solo esclusivamente con 69 grammi di sale e foglie d'alloro. Senti, tutto ti qua. Faccio una battuta, dimmi, ma ci sono le annate migliori e le annate peggiori, visto che viene affumicato, viene tenuto diciamo in conservazione per tanti mesi, quindi si può fare anche il vintage, si può fare l'annata 2011-2012, come fanno i francesi? Assolutamente sì, innanzitutto fumo il misultino non lo fa, il misultino è il pesce delle 3S, sale, sole, sasso, quindi di fatto sale per salarlo, sole per essiccarlo e sasso per schiacciarlo, quindi di fumo non ne fa. E poi sicuramente sì, perché mi capisci che se tu vai a salare un pesce troppo grasso, probabilmente non avrai un misultino che è di più facile approccio, un paragone enologico sarebbe di più facile beva, ma non avrà quella complessità che avrà un misultino magro. Bene, grazie a Cristian Ponzini, ristorante Silvio di Bellagio. Come avete sentito, ci ha dato una bellissima lezione su quello che è il prodotto tipico, il prodotto più conosciuto del lago di Como. Ma ora grazie e a presto. Guarisci presto. A voi e buon pesce di lago a tutti, mi raccomando. Guarisci presto. Bene, ora andiamo in pasticceria, andiamo da Anna Sartori a Erba, perché in questa pasticceria si fa un dolce molto particolare, che magari ce lo facciamo spiegare. Cos'è il Masigot? Dunque, il Masigot è un dolce tipico della nostra città, quindi proprio localizzato solo a Erba, è fatto con tre tipi di farine diverse, tutte piuttosto rustiche, la farina di grano saraceno, la farina di mais e la farina normale, quella bianca, è ricca di canditi, pinoli, frutta secca, molto particolare, viene montata, una pasta montata molto morbida, a differenza dei dolci tipici lariani che sono sempre abbastanza asciutti, insomma un po' più compatti. Ecco, ma è conosciuto anche fuori del territorio questo dolce? Le viene richiesto anche fuori dal territorio di Erba? Devo dire di sì, che è riuscito a diffondersi un po' in tutta Italia e viene riconosciuto, per esempio noi abbiamo clienti piemontesi che ce lo richiedono spessissimo, oppure anche in diverse occasioni matrimoni che lo vogliono degustare durante i loro banchetti. No, devo dire che oramai ha una certa diffusione, è riconosciuto sicuramente, grazie anche al fatto che è un prodotto tipico riconosciuto dalla regione Lombardia, e quindi tutto questo ha aiutato sicuramente. Bene, grazie a Anna Sartori. Grazie a lei della buon pasticceria. A tutti. Bene, rimaniamo sempre a Erba perché andiamo in un prodotto che ormai si può considerare anche tipico, perché la birra artigianale è molto importante nel territorio del Comasco. Ormai c'è un vero e proprio insediamento e importante di birrerie artigianali di grande livello. Ad esempio c'è il birrificio italiano di Agostino Airoli, che ha vinto anche dei riconoscimenti a livello mondiale. Ma oggi andiamo ad Erba, andiamo da Alessandro Campanini. Buongiorno Campanini. Buongiorno, una giornata tutta birra a tutti. Bene, bene. Buongiorno. Senta Campanini, ma com'è nata l'idea di questo doppio malto Brewing Company SRL? L'idea non è nata a Erba, ma è nata molto lontano. Io ho 20 anni che comunque viaggio negli Stati Uniti per passione, per lavoro, e lì ho conosciuto la birra artigianale. Non l'ho conosciuta in Brianza, ma negli Stati Uniti. Eh beh, è la patria delle birre artigianali, io credo. Esatto, certo, certo. Le mie birre sono birre ispirate a birre anglo-americane, uso molto lupoli americani. Ecco, la mia formazione è nata lì anche. Ecco, ho lavorato al Niagara Falls Brewing Company in Canada, in Ontario, un birrificio plurimedagliato degli Stati Uniti, e ho scelto loro per la mia formazione, sono stato lì a lavorare da loro. Ecco Campanini, come si spiega questa passione appunto in provincia di Como? Perché ci sono 5-6 birrerie di un certo livello, quindi diciamo è un fatto abbastanza anomalo, credo. Sì, sì, anomalo, e diciamo che noi birrifici artigianali abbiamo rispolverato antiche ricette, diciamo, che ovviamente erano abbastanza onerose economicamente da sviluppare per una, diciamo, per le grosse aziende, le grosse multinazionali che hanno monopolizzato per anni, diciamo, il gusto e la qualità della birra in tutto il mondo. E noi birrifici artigianali, avendo direttamente la mescita la maggior parte delle volte direttamente nel nostro birrificio, riusciamo, senza avere intermediari, cioè rappresentanti, trasporti e tutto, riusciamo comunque a fare queste birre che con prodotti di qualità, con materie prime di qualità, e riusciamo appunto a fare queste birre. Senta Campanini, lei che è anche un famoso maestro, sì, appunto, che tiene corsi di birra, nel vostro territorio si è sviluppato qualche birra con prodotto locale, come succede in altre parti con la farina di castagne, con lo zenzero e con altri prodotti? Io ad esempio produco una birra, una ginger ale con uno zenzero particolare, che la dottoressa l'anno scorso ha vinto una medaglia d'oro all'European Beer Star a Norimberga. Ci sono dei miei colleghi che so che fanno birre con alloro qui della Brianza, coltivato qui in Brianza. Ecco, birre particolari come per dire la birra castagna che è nata in Piemonte, così è molto famosa, no, non ne sono corrente. C'è anche, sono quelle di Carrubo anche che sono nate. Io ho fatto un lapsus incredibile perché ho definito prodotto del territorio lo zenzero. Ormai fa parte talmente della nostra tradizione, esatto. Si trova ormai dappertutto, che io ho fatto questo lapsus, che è un lapsus veramente certo. Freudiano, vabbè, è uscito e ora me ne scuso anche. Bene, io la ringrazio, grazie Alessandro, Alessandro Campanini. Io volevo anche ricordare che oggi pomeriggio e domani pomeriggio a Gorizia, nella piazza Sant'Antonio, c'è la manifestazione Vini e Confini, appunto, dove diciamo saranno presenti una serie di produttori storici, appunto, friulani, delle varie aree friulane, nonché dei giovani emergenti. Quindi ci saranno, diciamo, delle interviste, ci saranno incontri, ci saranno degustazioni. Quindi lo ripeto, Vini e Confini nella piazza Sant'Antonio a Gorizia, oggi pomeriggio dalle 5 e domani pomeriggio dalle 5. Il gastronauta. Cari gastronauti, vi sto guidando in un bellissimo itinerario paesaggistico e goloso. Dove? Nel lago attorno al lago di Como, perché tutti magari pensano al lago bellissimo, una bella gita, però si mangia anche, si beve, e qui ci sono da scoprire, come abbiamo fatto fino ad ora e continueremo a fare, delle chicche che sono sconosciute anche questa di cui vi sto parlando. Forse pochi sanno che attorno al lago di Como, nelle vicinanze del lago di Como, c'è anche il vino. Ebbene, c'è anche, diciamo, un pioniere del vino, abbiamo con noi Daniele Travi. Buongiorno Travi. Buongiorno. Dell'azienda agricola Sorsasso. Senta, ma lei come le è venuto in mente di così mettere in piedi un'azienda vinicola e poi, diciamo, piano piano sviluppare anche un eccellente vino, cosa forse impensabile anni fa? Diciamo che il vino ce l'abbiamo nel sangue, i nonni, i bisnonni lo facevano. Io ricordo da bambino, parlo degli anni 70, il nonno già produceva circa 150 ettolitri di vino che vendeva poi qui nei paesi limitrofi della montagna. E quale vitigno suo nonno produceva? Con quale vitigno? Il nonno lavorava molto con il Sangiovese, che abbiamo ancora qualche reperto in giro, e lavorava con la Verdesa, che è un'uva autoctona poi del lago di Como, e lavorava anche con delle uve che la tipo Rosseia, che allora si chiamava in dialetto la Rossera, che adesso stiamo ripopolando e stiamo riproponendo. Comunque ci vorrà ancora un po' per questo aspetto della Rossera, ecco. Poi, diciamo, ritornando a quello che si diceva, tornato dagli Stati Uniti ho visto la proprietà dei nonni in disuso e sono rimasto un po' così, le fatiche e i sacrifici dei miei, diciamo, familiari di un tempo visti così maltrattati, e ho cominciato ad aprire un pezzettino di terrazzamento. Ho visto i muri caduti, ho cominciato da un angolino, ne ho costruito un altro, poi un altro, poi un altro, e oggi siamo arrivati oramai a rifare i muri di circa 6 ettari. Senta, ecco, ora che quali sono i vini, diciamo, in produzione, quelli che già da un paio di anni, diciamo, sono sul mercato? Sì, oggi produciamo due vini, innanzitutto il Domasino, che è il top della nostra gamma, Domasino bianco e Domasino rosso, e poi un altro vino fatto con uve che provengono dai pergolati e magari un po' di seconda scelta, che vengono deviate su questa linea chiamata Cantine del Lago. Senta, Travi, chi è che l'hanno seguita? Ci sono altri produttori? Mi sembra che siano nati altre produzioni, appunto, lentamente nel vostro territorio. Sì, diciamo che proprio a fianco di noi c'è un giovane ragazzo che si è messo anche lui di buona lena, e speriamo che resista, perché non è una cosa facile sopravvivere in questo mondo competitivo. Così come anche lungo il lago qualcuno sembra stia cominciando, e speriamo che abbia queste intenzioni serie anche nel futuro, perché più siamo meglio è, perché c'è più credibilità, c'è più territorio, c'è più confronto, c'è più motivo di crescere. Quindi io non sono uno che vedo la competizione come unico ed esclusivo motivo di crescita. Senta, in molti territori d'Italia succede che i ristoratori locali snobbano un po' il vino locale. Succede anche nelle vostre parti? Agli inizi direi proprio che è stata così. Oggi come oggi io direi che c'è stata una grandissima risposta di territorio, tant'è vero che stranamente quest'anno siamo arrivati a metà giugno e oramai di vino direi che non ne abbiamo, stiamo cominciando a razionarlo e a darne meno di quello che ci chiedono. Infatti sto facendo una vigna nuova proprio per sopperire a queste mancanze. Insomma, lei va avanti e mi sembra va avanti come un treno, anche perché, insomma, in fondo è un imprenditore, quindi capisce benissimo quando c'è da spingere e quando invece bisogna rallentare. Io la ringrazio, grazie. Daniele Travi, azienda agricola Sol Sasso. Bene, allora continuiamo questo nostro viaggio e ora andiamo a Caslino d'Erba. Caslino d'Erba, che porta anche il nome di un noto formaggio. Andiamo da Renata Sara. Buongiorno Renata. Buongiorno. Allora, voi producete il tipico caprino di Caslino, ma sì. Da come è ottenuto? So, da razze particolari di capra, vero? No, noi abbiamo la razza Sanen, che è quella bianca svizzera, e poi qualche anno fa abbiamo fatto anche un innesto di razze nubiane per aumentare la qualità del latte, con più grassi e quindi avendo anche più resa. Senta signora, sento un rumore di sottofondo. Sì. Purtroppo sto lavorando, sono nel mio caseificio, è un po' rumoroso. Non può interrompere. Un attimino, così riesco a parlare insieme. No, già, giustamente, appunto, continui pure il suo lavoro. Allora, voi producete il caprino di Caslino, che diciamo è il formaggio più noto appunto del territorio. Quali sono gli altri formaggi di capra che voi producete? Noi produciamo la robiola, lo stracchino di capra, che sarebbe il taleggio, perché non si può chiamare taleggio essendo di capra. Poi facciamo dei caprotti, della ricotta, delle caciotte, tutto di latte di capra. Ecco, senta, quello diciamo denominato caprino di Caslino, cioè è molto conosciuto e quindi diciamo è forse il prodotto più venduto. Sì, è il nostro fiore all'occhiello, che è un, for- formaggio che già esisteva dal XVIII secolo sul territorio, soprattutto a Caslino. Ogni famiglia aveva la sua capra e ogni famiglia produceva questo formaggio. Noi 10 anni fa abbiamo creduto in questa cosa, abbiamo ripreso questa tradizione che stava un po' scomparendo e siamo partiti un po' per gioco e poi in realtà stiamo andando bene, siamo molto contenti. Ecco, visto che porta anche il nome di un luogo, avete mai pensato di chiedere l'IGP? Noi abbiamo fatto richiesta di DOP, stata una proposta, vediamo, ci vorrà tempo, anche perché rientra nel discorso del triangolo lariano, quindi altre aziende devono aderire a questa cosa. È un prodotto un po' particolare perché viene fatto tutto a mano, quindi richiede un po' di tempo. Noi ogni caprino è fatto singolarmente, fatto a mano. Addirittura ogni caprino? Ogni caprino. Noi abbiamo una produzione di 120 litri giornalieri che sono circa 240 caprini eseguiti completamente a mano. Mi tolga una curiosità, ma un caprino quanto costa visto questo lavoro manuale? Noi lo vendiamo a 1,50 euro cada uno. Il lavoro è tanto, immagino. No, è una nicchia, è un prodotto di nicchia, noi ci crediamo molto. Quindi producete ogni giorno? Ogni giorno produco formaggio, faccio i formaggi in caldaia, che sono gli stracchini, altri formaggi, le robbiole sono fatte sempre a latte crudo come il caprino, ma un'altra lavorazione, e poi tutti i giorni comunque c'è il caprino, perché è molto richiesto, siamo fortunati su questa cosa. Ecco, va fuori territorio, lo spedite fuori territorio il caprino? Quasi tutto nella provincia di Como. Anni fa lo portavo anche verso Varese, verso Milano, poi la richiesta era notevole in questa zona e il latte che ho a disposizione è quello, quindi preferisco tenere un po' come prodotto di nicchia, anche pur dandolo anche ai supermercati locali della zona, che però mi permettono di avere una visibilità e una pubblicità che... In più. Bene, facciamo un appello alle autorità del Ministero delle Politiche Agricole, all'assessorato regionale della Lombardia, sostenete la DOC della DOP, scusate, del caprino di Caslino, perché visto il lavoro manuale e vista la rarità di questo prodotto vale veramente la pena. Ci sono dei prodotti DOP che diciamo in parallelo fanno veramente ridere rispetto a, diciamo, alla manualità che c'è e alla tradizione che c'è su questo prodotto, ma sembra proprio che diciamo questo territorio lariano, questo territorio attorno al lago di Como abbia questa vocazione casearia, perché abbiamo sentito soprattutto grandi lavorazioni di formaggio di capra, di formaggi di capra, ed oggi è una tendenza molto importante sul mercato, c'è grande interesse su questa tipologia di formaggio, perché oltre al caprino di Caslino e oltre agli altri prodotti di cui abbiamo parlato in apertura di questa trasmissione, ci sono anche produttori di Semuda e Zincarlin. Bene, la Semuda è un formaggio di latte vaccino a stagionatura medio-lunga ed è noto anche con il nome di Cingerlino lo Zincalin, che è una ricotta aromatizzata e stagionata. Il gastronauta. Cari gastronauti, come avete sentito, le chicche che abbiamo così fatto emergere da questo viaggio nel lago di Como e dintorni veramente sono tante. Abbiamo trovato un vitigno autoctono come la Verdesa, abbiamo trovato un prodotto particolare come la zola di capra, abbiamo trovato un miele particolare come l'Ailando, ottenuto dall'Ailando, una pianta molto particolare come ci è stato spiegato, abbiamo trovato il caprino di Caslino, abbiamo trovato ancora appunto molti pesci da cui è stata ottenuta bottarga di pesce di lago, e poi abbiamo sentito anche Cristian Ponzini che ci ha raccontato appunto come si produce un missoltino, come si ottiene. Bene, continuiamo perché ce ne sono altre di sorprese. C'è anche una sorpresa dal punto di vista diciamo dell'olio, e abbiamo con noi Stefania Mattarelli dell'azienda agricola Stefania Mattarelli appunto di Perledo. Buongiorno Stefania. Buongiorno. Io so che lei produce pochissime bottiglie ma che sono eccezionali. Sì, è vero, grazie. Ecco, ma lei, dunque, voi avete ottenuto come Laghi Lombardi il riconoscimento della DOP. Sì. Volevo chiedere, da quale cultivar lei ottiene appunto il suo olio? Sì, dal disciplinare sono Frantoio, Leccino e Pendolino, le tre cultivar che vanno a comporre la DOP. E quindi da queste tre cultivar che sono tradizionali nell'area? O è una sua invenzione? Sono tradizionali e soprattutto legate anche al tipo di clima, sono quelle che si trovano meglio dalle nostre parti. Ho capito. Senta, come le è venuta la passione dell'olio? No, io ho aperto l'azienda agricola quando ho finito l'Accademia di Brera, mio papà aveva già degli ulivi, aveva recuperato delle antiche piante centenarie, ne aveva piantate altre e quindi abbiamo deciso insieme di valorizzare questo lavoro. Ecco, ho sentito Accademia, quindi volevo chiederle, parliamo di arte allora, cosa consiglia in questo itinerario, diciamo, attorno al lago di Como, qualche chicca particolare non conosciuta dal punto di vista artistico? Ma io direi che qui è tutto bellissimo, la nostra zona dal punto di vista artistico. Sì. Ci sono chiesette in cui si trovano degli affreschi conosciuti, bisogna proprio girarlo il territorio. Ecco, ma una in particolare ce la consiglia? Ma qui abbiamo il Castello di Vezio, che è della regina Teodolinda ed è stupendo, in una posizione che domina proprio il lago, il centro lago, veramente merita una visita. Allora io la ringrazio, lo ripeto, azienda agricola Mattarelli, appunto di Perledo, produttrice di olio. Grazie, la ringrazio. Grazie, buona giornata. Ora andiamo da un ristoratore a Lecco, è un ristorante Nicolin, dove sicuramente ci sono piatti tradizionali, ma anche piatti rivisitati con una certa creatività da Giovanni Cattaneo. Buongiorno Cattaneo. Buongiorno. Senta Cattaneo, mi dice, voglio parlare più che dei piatti, dei prodotti. Ecco, quali ritiene lei i prodotti più interessanti per un cuoco, per un ristoratore, diciamo, dell'area lariana, Lago di Como, dintorni, quindi appunto il suo territorio? Ma sicuramente per la Valsassina io uso il Taleggio e uso anche i caprini che mi portano... dei piccoli agricoltori anche che fanno a piccola produzione. Per quanto riguarda ovviamente qua abbiamo il lago e quindi mi portano dei pesci di lago da Bellagio, che c'è un pescatore, e anche da Varena, sono i due punti dove io prendo che pesci di lago che lo metto in menù circa 3-4 mesi all'anno nel periodo estivo. Ecco, quali sono questi pesci di lago i più interessanti da essere cucinati? Ma sicuramente è il lagone, l'avarello, e poi quando che si riesce a trovare anche delle belle trote di lago da fare carpaccio, anche crude o messe in marinatura, sono molto buone. E poi anche il pesce persico, ecco, sono questi 3-4 pesci che noi usiamo, che riescono poi a trovare quotidianamente. Ecco, abbiamo parlato anche di olio. Lei come lo giudica l'olio, appunto, del, diciamo, attorno al Lago di Como, quello che viene chiamato a Laghi Lombardi? Sì, io lo trovo molto buono, anche e soprattutto anche che per usare che il pesce. Io, oltre a fare il pesce del territorio, faccio anche una cucina mediterranea. E quindi questo olio mi trovo bene anche, ad esempio, a fare una quantità di pesce di mare, secondo me è molto buono. E questo olio che è delicato e ha un gusto persistente. Quindi... Senta Cattaneo, in questo itinerario che io ho fatto attraverso molti produttori, ciò che mi manca sono i salumi, ma sono molto presenti i salumi nel territorio oppure non c'è qualcosa di tipico per cui, diciamo, valga la pena parlare di tradizione e di territorio? Qua e da noi sul Lecchese, Lecco e Lago, i salumi è molto difficile da trovare. Io in casa faccio la bresaola, che è un piatto che mi ha tramandato mio nonno e mio papà, e adesso la sto facendo io, sia che la bresaola, che la coppa, che anche il guanciale. Però che per il resto bisogna andare un po' in Brianza. In Brianza ci sono dei piccoli produttori, certo. Ecco, in Brianza, ecco, soprattutto. Bene, io la ringrazio, grazie. Grazie a lei. Grazie a Cattaneo del ristorante Nicolin. Bene, io credo che ci siano state molte sorprese in questo viaggio attraverso appunto Lago di Como. Siamo arrivati anche nel Lecchese. Bene, chicche che sicuramente non sono molto conosciute, come già dicevo. Vorrei ritornare su appunto due prodotti di cui si parla molto appunto nel Comasco. È una patata bianca proprio molto vicino a Como e una cipolla. Sembra veramente che siano molto caratteristiche e molto particolari. Certo che con questi due prodotti di ortofrutta il paniere veramente diventa molto, ma molto importante in una zona che è molto turistica, quindi sicuramente sono prodotti che possono venire a farti conoscere al turista che spesso si reca in quella zona, perché ovviamente il Lago di Como, anche visto gli arrivi importanti di VIP e di attori, è sempre molto ma molto conosciuto. Non ho parlato di molti ristoranti perché volevo così far conoscere di più i prodotti, che sono forse quelli meno che i radioascoltatori conoscono. Certo, anche la ristorazione è di ottimo livello, come dicevo, sia attorno al lago sia anche nei paesi vicini, e come dicevo a Bellagio ci sono alcuni importanti ristoranti anche a livello internazionale. Bene, allora abbiamo concluso questo viaggio sul Lago di Como, un viaggio inaspettato, e quindi vi invito magari a ripercorrerlo, oltre ovviamente andare a vedere le bellezze artistiche, le bellezze paesaggistiche, che sicuramente non hanno nulla da invidiare a nessun altro luogo al mondo. Io vi saluto, vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11:15 e tutti i giorni con la pillola alle 11:05 e alle 23:05. Quindi un caro saluto da Davide Paolini e alla prossima settimana.